Salva Danaio. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani, naturalmente anche Salva Danaio. Si allinea al resto del palinsesto che Radio 24 vi sta proponendo da ieri sera. Stiamo dedicandolo alle elezioni americane. Oggi gli Stati Uniti si stanno svegliando con il nuovo presidente. È Barack Obama, rimane alla Casa Bianca e noi, a parte le considerazioni sulle capacità di leadership e le doti carismatiche di questo politico, a Salva Danaio, dopo aver sentito tutto quello che è e sarà l'impatto politico di questa decisione dei cittadini americani, ci focalizziamo, come preannunciato anche nel giornale radio, sulle prospettive dei mercati. Lo ricorderete, avevamo già fatto una puntata su questo tema cercando di individuare le possibili prospettive in relazione alla vittoria di uno o l'altro candidato. Oggi, visto che abbiamo la scelta americana definitiva e chiara, vediamo cosa succede in questa giornata sui mercati, qual è stata la reazione complessiva della comunità finanziaria, quella degli investitori, di chi sta cercando di capire come posizionarsi sul mercato americano, in che ottica, in quali settori, con che prospettiva. Stamattina naturalmente ho letto diversi report diramati, pubblicati dalle società di investimento. Qualcuno ha detto è con un senso di sollievo che l'Europa questa mattina ha accolto il risultato delle elezioni presidenziali americane, che hanno riconfermato appunto per la seconda volta Barack Obama alla Casa Bianca. L'incertezza delle ultime settimane lascia il posto alla continuità politica e alla familiarità con le scelte del presidente della prima economia mondiale, per quanto le incertezze legate al fiscal cliff, il precipizio fiscale di cui poi dopo vi rammenteremo appunto i contenuti, potrebbero mantenere una certa volatilità sui mercati. Allora oggi noi parliamo di tutto questo con i nostri ospiti. Ringrazio e saluto, lo ringrazio per il ritorno, Emilio Franco, responsabile degli investimenti e vice direttore generale di UBI per America SGR. Benvenuto, buongiorno. Buongiorno. Saluto e ringrazio per il suo ritorno, perché ormai per la seconda volta nel giro di pochi giorni lo ridisturbiamo sullo stesso argomento, ma è molto appassionante. Enrico Vaccari, gestore di Consultinvest SGR, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie. Più tardi ci collegheremo anche da Washington per sentire anche come si sta svegliando la città che ospita Capitol Hill, quindi la Casa Bianca. Un consulente finanziario, un animatore di un sito di consulenza finanziaria, Understanding the Market, capire il mercato, Coleman Kendall. Lo sentiremo appunto tra poco. Come sempre, naturalmente, anche microfoni aperti a voi, le vostre curiosità finanziarie a poche ore dal risultato elettorale americano potete rivolgercele all'800240024. Ci potete scrivere al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, e come sapete siamo anche su Facebook e su Twitter. Su Facebook salvadanaio-radio24, su Twitter @salvadanaio24. Andiamo subito a vedere l'Europa come si è svegliata questa mattina. Si è svegliata molto bene, per la verità in certi momenti della mattinata ha manifestato un po' di incertezza e ha rallentato il passo, cosa che sta facendo adesso. Gli indici sono arrivati a guadagnare tra lo 0,7 e il punto percentuale. La miglior piazza per tutta la mattinata è stata sempre Parigi, che dopo essere arrivata a guadagnare appunto circa un punto adesso segna più 0,58%, Francoforte più 0,33%, Londra più 0,52%, Milano sta azzerando il suo guadagno più 0,07% adesso sulle FTSE MIB. Forse più interessante monitorare il rapporto di cambio euro su dollaro a 1,28,18. Subito il commento a caldo di Emilio Franco rispetto a questo risultato elettorale. Le piace Barack Obama in funzione finanziaria, diciamo così, Franco? Ma diciamo la comunità finanziaria, specialmente quella americana, e la comunità corporate delle imprese, in realtà era più schierata per Romney, nel senso che Obama ha una pessima reputazione dal punto di vista dell'essere amichevole con i mercati e con le imprese. Per quanto riguarda i mercati, la ragione fondamentale è lo slancio di regolazione che è partito post Lehman negli Stati Uniti, che è stato guidato da Obama, e direi che emblematicamente può essere sintetizzato nella regola di Volcker, l'ex presidente chairman della Fed, che praticamente ha imposto e imporrà delle limitazioni notevoli, specialmente alle grandi banche di investimento nell'attività di trading. E però questo slancio si è arenato più volte, perché poi questi provvedimenti non si sono concretizzati ancora definitivamente. Certo, assolutamente, assolutamente. Però diciamo, quindi Obama da quel punto di vista era visto ed è visto come, tra virgolette, ovviamente un nemico delle grandi banche, della comunità finanziaria, e indirettamente meno pro mercato, e anche meno pro mercato perché tra le sue previsioni probabilmente c'è un incremento delle imposte, per esempio sul capital gain, sui dividendi, no? Quindi appare come meno amichevole sui mercati. Le imprese gli hanno sempre rinfacciato di non aver abbassato le imposte. Il tax rate, l'aliquota fiscale ufficiale delle imprese americane è molto alto, e le imprese americane di fatto hanno reagito negli ultimi 20 anni a questa cosa delocalizzando in tutto il mondo, e quindi hanno delle aliquote fiscali facciali molto elevate ma pagano le tasse in giro per il mondo, e quindi c'era un'aspettativa che nel caso di vittoria di Romney si potesse vedere un addolcimento della pressione specialmente sulle grandi banche e sulle società troppo grandi per fallire, come si suol dire, e dall'altra parte qualcosa di più amichevole sulle imprese. Questo ovviamente a questo punto non succederà, perché saremo in continuità, come citavi tu prima correttamente. Però nello stesso tempo credo che questa prima lettura, anche se è un po' prematuro poi estrapolare troppo da qualche ora di mercato aperto, sia per il mercato un pochino di sollievo che non si sia andati verso una situazione come quella del 2000, no? Che era stata paventata. Con l'esito elettorale incerto in molti stati, in quel senso intendo. Certo, quindi con una contestazione che avrebbe ulteriormente rallentato sia le prospettive di insediamento che la capacità negoziale del nuovo presidente in un congresso che rimane diviso per gestire il grande tema appunto di questo burrone fiscale che comunque volenti o nolenti dal 1 gennaio scatta, ah, sì, certo, e deve essere gestito. Quindi, di qualunque colore sia appunto la poltrona della Casa Bianca in questo momento, in ogni caso ci sarà anche probabilmente qualche problema a livello congressuale che il nuovo presidente dovrà affrontare. La fermo un attimo, Franco, poi la lascerò naturalmente proseguire nel suo ragionamento, perché abbiamo già individuato nei vari discorso che ha rilasciato chiaramente di accettazione dell'incarico questa mattina, per quello che riguarda l'Italia in termini di orario, Barack Obama, abbiamo già individuato quella che potrebbe essere considerata a questo punto la frase chiave del suo discorso, quella almeno più impattante dal punto di vista mediatico: the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Però noi abbiamo estrapolato dal suo discorso invece qualche brano esplicitamente dedicato alla condizione economica statunitense. Sentiamo cosa ha detto e come è stato accolto il suo commento sulla ripresa economica americana. America, I believe we can build on the progress we've made and continue to fight for new jobs and new opportunity and new security for the middle class. I believe we can keep the promise of our founding. The idea that if you're willing to work hard, it doesn't matter who you are or where you come from or what you look like or where you love. It doesn't matter whether you're black or white or Hispanic or Asian or Native American or young or old or rich or poor, able, disabled, gay or straight. You can make it here in America if you're willing to try. Poi in precedenza Obama aveva anche detto: la nostra economia si è ripresa, un decennio di guerra economica, ha detto, anche sta finendo. Credo che possiamo costruire sui progressi che abbiamo fatto, che continueremo a lottare per nuovi posti di lavoro e nuove opportunità e nuova sicurezza per la classe media. Credo che siamo in grado di mantenere le promesse, l'idea che se sei disposto a lavorare sodo, non importa chi sei o da dove vieni o a cosa guardi o cosa ami, non importa se sei nero, bianco o ispanico o asiatico, nativo americano o giovane, insomma l'America ha questa prospettiva. Enrico Vaccari, ho fatto una gran risata ascoltandolo, confrontandomi con lui prima dell'inizio della trasmissione, perché Vaccari mi ha detto: il discorso sicuramente molto emozionante e quindi dal punto di vista emotivo molto coinvolgente senz'altro, poi però un attimo sono raffreddato negli animi e ho cominciato a fare qualche ragionamento da gestore. Vaccari, e che tipo di conclusione ha tratto allora dal discorso di Barack? L'ha convinta o no? Era anche molto stanco, noi l'abbiamo detto più volte nel corso delle ultime ore nella nostra anche estenuante diretta, per cui anche essere brillanti dopo mesi di campagna elettorale e ore di mancato sonno è anche un po' difficile, no? Che ne pensa? Sì, però infatti, il gestore arido e avido il suo commento lo fa. No, dal punto di vista di cittadino sono stato molto emozionato perché Obama è un oratore senza precedenti, direi, quindi sognavo tra me e me quando avremo un politico di questo genere anche in Italia. Ma a parte questa considerazione, da un punto di vista di gestore guardiamo poco alle parole, molto ai numeri. Io aggiungerei che Obama ha detto che il meglio deve ancora venire, ma di fatto le sfide vere stanno per arrivare, quindi lui avrà a gennaio due sfide molto importanti che sono il superamento del tetto legale dell'indebitamento pubblico che dovrà essere elevato con un provvedimento legislativo, quindi trovare quei compromessi che sono mancati nel 2011-2012 e poi scadranno queste famose misure fiscali favorevoli, cosiddetto fiscal cliff, e quindi devo dire che le sfide vere forse dell'amministrazione Obama stanno per arrivare adesso. E Vaccari, gliel'ho fatto fare anche l'altra volta questo ragionamento, giusto per essere subito chiari con i nostri ascoltatori, che cosa vuol dire questa scadenza di questi incentivi fiscali e che impatto potrà avere appunto questa scadenza complessiva sull'economia americana, perché sarà un impatto fortemente recessivo? Ma fortemente recessivo, perché le strade a questo punto, le possibilità sono tre. O c'è il raggiungimento di un accordo ponte entro la fine del 2012 che porta avanti di un anno questo fiscal cliff, quindi proroga queste misure, oppure un mancato accordo potrebbe addirittura aprire uno scenario molto sfavorevole, perché potrebbe portare gli Stati Uniti a una crescita zero già nella prima parte del 2013. C'è un terzo scenario che viene cosiddetto definito il grande bargain, cioè avere un grande accordo bipartisan che affronti il tema della stabilizzazione del debito, che è il più importante, e il rientro del deficit su un orizzonte temporale almeno decennale. E questo sarebbe uno scenario che vorrebbe dire un grande accordo bipartisan tra Partito Repubblicano e Democratico. Allo stato attuale questo però non sembra possibile, quindi di fatto andremo verso una proroga probabilmente delle misure favorevoli, con alcuni inasprimenti fiscali che toccheranno soprattutto la classe più agiata, che è quella che si sentirà più colpita dall'amministrazione Obama. Quella che avrebbe voluto vedere molto volentieri Romney alla Casa Bianca, naturalmente. Allora, in tutto questo, il mercato azionario americano, in questa attesa di questa giornata, è stato sicuramente fra i più brillanti del 2012 e ha evidenziato delle performance superiori alla media globale. Sicuramente gli Stati Uniti sono andati in maniera molto diversa rispetto agli indici europei, che sono stati invece notevolmente più traballanti, appunto per la pesantissima crisi del debito sovrano. Tra l'altro, subito, Franco, c'è un messaggio per lei da parte di un ascoltatore, Max D'Ancona, che ci scrive: ho sottoscritto da 15 mesi circa dei fondi UBI per America che investono sui dollari in un'ottica temporale di 5 anni. Come giudicate l'investimento? È chiaro che Emilio Franco non può che giudicarlo nel miglior modo possibile, ma le chiedo: un'ottica temporale di 5 anni è un'ottica temporale corretta per puntare su quel mercato? Perché? Ma diciamo, è un orizzonte temporale di tutto rispetto, indubbiamente in un orizzonte temporale così lungo l'investitore può scegliere delle asset class o delle metodologie di gestione che consentano, attraverso una volatilità medio-alta, di dare delle soddisfazioni in termini di rendimento. Sicuramente ci sono delle dinamiche di medio-lungo termine sul dollaro che possono essere favorevoli. Citerei tra le tante, forse una di quelle su cui meno ci si sofferma, specialmente in Italia, il fatto che gli Stati Uniti sono avviati verso un percorso di progressiva autosufficienza energetica. Questo indipendentemente da Romney o da Obama. Sono state fatte scoperte di grossi giacimenti di gas negli Stati Uniti, le tecnologie oggi consentono in maniera più o meno amichevole per l'ambiente di sfruttare queste tecnologie, e quindi progressivamente, diciamo, in un orizzonte che è almeno di quei 5 anni, gli Stati Uniti via via diventeranno sempre meno dipendenti dall'estero, specialmente dal Medio Oriente, per il petrolio, e questo determinerà a tendere, a parità di condizioni, una riduzione di una delle tradizionali fonti di offerta di dollaro nel mondo, che è il fatto che gli americani devono comprare petrolio. Quindi già questo, per esempio, è uno dei fattori che potrebbero giustificare. Mi sembra che nel suo discorso l'abbia detto Obama: vorremmo essere sempre più indipendenti dal resto del mondo da questo punto di vista. Questo è un aspetto secondo me estremamente interessante. Noi forse, proprio per riprendere il tema del collega sull'evoluzione politica del nostro paese, stiamo un po' perdendo di vista questo aspetto. Gli Stati Uniti via via più indipendenti dal punto di vista energetico saranno sempre meno interessati in termini relativi a quello che succede nel Medio Oriente, e sempre meno interessati a quelli che nei secoli si sono venduti come il ponte verso il Medio Oriente e verso certi altri paesi, come per esempio l'Italia. E l'attenzione, una volta che gli Stati Uniti metteranno in sicurezza questo tipo di gestione di pericolo, di rischio energetico, l'attenzione loro politica, geopolitica, si sposterà a est, si sposterà verso la Cina, perché questo sarà il tema dei prossimi 10, dei prossimi 15, dei prossimi 20 anni. Quindi l'area euro deve reagire anche politicamente, non come Italia, non come Germania, ma come area euro. Perché, come Bruxelles, diciamolo così. Esattamente, perché rischiamo di diventare sempre più piccoli, sempre più marginali e di perdere un alleato non soltanto militare, ma politico, che è stato molto importante nel dare stabilità a questa regione. Comunque, nel lungo termine, il dollaro secondo noi ha delle ragioni, e questa del petrolio è una delle più importanti per essere supportato. Certamente nel breve, le vicende ultime che stiamo vedendo, che di fatto rafforzano Bernanke, che è il governatore della Banca Centrale Americana, lo rafforzano e probabilmente gli consentiranno anche di diventare ancora più accomodante e generoso di quanto non sia stato oggi. Chiaramente nel breve termine, specialmente se la BCE non dovesse a sua volta accelerare in termini di disponibilità a diventare via via accomodante, questo potrebbe favorire un indebolimento nel breve del dollaro, perché noi sappiamo che Romney aveva già di fatto cassato la possibilità di una conferma di Bernanke. Our economy is recovering. A decade of war is ending. A long campaign is now over. L'ovazione per Barack Obama in questo passaggio del suo discorso di questa mattina, dopo che appunto gli Stati Uniti lo hanno decretato come nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Naturalmente viene confermato per il suo secondo mandato, e ha parlato Barack Obama, come avete sentito, di questa economia statunitense che è in ripresa, ma naturalmente non senza grandi difficoltà. Noi stamattina stiamo parlando del risultato elettorale americano. Salva Danaio, chiaramente in un'ottica più finanziaria ed economica, cerchiamo di capire quale potrà essere a questo punto l'andamento di Wall Street e anche quale potrà essere l'impatto di questo risultato elettorale sui mercati finanziari internazionali. Impatto in questo momento positivo sull'Europa, anche se gli indici stanno rallentando il passo, hanno già digerito il risultato elettorale, come sempre a questo punto guardano avanti. Con noi Emilio Franco, responsabile investimenti e vice direttore generale di UBI per America SGR, Enrico Vaccari, gestore di Consult Invest SGR. Abbiamo raggiunto telefonicamente, e lo saluto, Coleman Kendall, che è un consulente finanziario, animatore del sito Understanding the Market, ma soprattutto vive a Washington. Cole, buongiorno, benvenuto. Ci senti? Buongiorno. Sì, buongiorno Deborah. Come si sta svegliando Washington con, tra l'altro tu abiti anche non tanto lontano dalla Casa Bianca, con la riconferma di Barack Obama? Sì, il problema era ieri sera quando si andava a letto, perché alle 11:30 della sera hanno incominciato la grida dei vincitori. Allora era notte abbastanza lunga, perché si sentiva tutta la notte Obama, ma non così forte come 4 anni fa, devo dire. Beh, certo, diciamo che l'elezione di 4 anni fa è stata più emblematica e simbolica per tanti altri aspetti. Cole, tu ti occupi di analisi di mercati finanziari, ci puoi dire quale sarà secondo te, secondo la tua sensibilità, oggi l'accoglienza di Wall Street rispetto a questo risultato elettorale? Sì, ci sono due cose più importanti, che sono prima per i prossimi 2 mesi, perché come voi sapete Obama è rieletto oggi, ma il mandato non inizia prima del 20 gennaio. Sì. Allora per i prossimi 2 mesi sarà il vecchio congresso, cosiddetto lame duck, un'altra zoppa, che continua il mandato per 2 mesi, e loro devono cercare un modo di rifare le nostre tasse e la spesa, perché c'è il fiscal cliff che va occorre prima del 1 gennaio. Mm-hmm. E questa è la prima cosa di cui... Primo impegno presidenziale, diciamo. Sì, sì. Mm. Primo del... E che è la fine del primo mandato. Mm-hmm. Allora, il Presidente deve trovare un modo di alzare le tasse, ma i repubblicani mantengono il controllo della Camera. Allora, questo sarà difficile. E secondo, devono tagliare un po' la spesa, ma questo è anche un po' difficile. Mm. Seconda cosa, quello più importante, è la politica monetaria, che Bernanke... si dice qua finirà il suo mandato nel 2014, e dopo di lui adesso sappiamo che sarà un altro presidente della Fed, che manterrà la moneta debole, cioè di continuare tutta questa espansione monetaria, e il dollaro avrà un valore un po' più basso nei prossimi anni rispetto a che cosa sarebbe successo se Romney avesse vinto. E insomma, questa è la percezione di chi si occupa di finanza e vive a Washington. Col, ti chiedo di rimanere ancora collegato con noi, così magari ascolti anche le considerazioni dei nostri altri ospiti. Non ci dobbiamo dimenticare, e adesso vorrei anche intraprendere questo, questa riflessione con i miei ospiti, che la campagna elettorale è stata caratterizzata anche da Occupy Wall Street, no? che è questo movimento di contestazione pacifica nato proprio per denunciare gli abusi del capitalismo finanziario, che si è concretizzato in una serie di dimostrazioni, in primo luogo nella città di New York presso Zuccotti Park, e poi si è esteso anche, per la verità, ad altre nazioni ed è arrivato anche in Europa. Franco, potrà risvegliarsi di nuovo questo movimento, secondo lei, e disturbare un po' il nuovo presidente anche nelle sue prossime iniziative a sostegno dell'economia? Non ci dimentichiamo che gli Stati Uniti d'America sono un paese dove ci sono 23 milioni di disoccupati. Ma diciamo che dal punto di vista di un movimento come Occupy Wall Street, indubbiamente l'esito elettorale con la vittoria di Obama è sicuramente migliore di quanto non sarebbe stato nel caso di Romney, no? Come dicevamo prima, comunque Obama si è insediato nel suo primo mandato in una fase particolarmente critica, no? Non ci dimentichiamo che cos'era la fine del 2008 e l'inizio del 2009, e è stato il presidente che ha imposto una nuova ondata di regolamentazione sulle banche. È stato il presidente che non solo ha guardato alla continuazione delle misure eccezionali, la TARP, no, della passata amministrazione, ma poi è andato oltre dicendo il ruolo di banche e di istituzioni finanziarie che diventano troppo pervasive nell'economia e che possono mettere a repentaglio la stabilità del sistema economico deve essere regolamentato in maniera molto rigida. Quindi da questo punto di vista direi che la soluzione Obama è quella probabilmente che potrebbe essere eletta più positivamente. Ora, indubbiamente sono queste considerazioni, riflessioni più di tipo politico generale che di impatto immediato su scelte di portafoglio. Penso che vedremo nei prossimi mesi ovviamente una riattivazione di quel percorso che dal punto di vista legislativo deve essere completato e che deve portare, nella lettura del presidente americano, a una regolamentazione più rigida da parte del regulator circa l'attività delle grandi istituzioni finanziarie, proprio per evitare che si possano ripetere determinati eccessi che hanno portato alla crisi che conosciamo. Quindi questa è una dinamica che penso possa immaginarsi, potrebbe non essere favorevole a grandi istituzioni finanziarie, non soltanto bancarie, perché qui il concetto di too big to fail nella lettura dell'amministrazione Obama non si applica soltanto a JP Morgan, ma si applica anche, non so, alle grandi assicurazioni. Infatti abbiamo visto, insomma, la lezione che il mercato ha subito con il fallimento di Lehman Brothers. Effettivamente, quando un colosso finanziario di quelle dimensioni viene lasciato fallire, gli effetti sono veramente devastanti. Enrico Vaccari, vorrei tornare da lei per commentare quel piccolo brano della dichiarazione di Obama, appunto, che abbiamo preso prima, quando lui dice l'economia è in ripresa. Effettivamente il PIL americano è tornato a salire fino al 2%, c'è una modestissima ripresa, appunto, dei consumi statunitensi. Sappiamo quanto vale, appunto, la spesa per consumi negli Stati Uniti, come impatta in tutta l'economia. Abbiamo già anche paventato quello che potrebbe essere il freno a questa ripresa dei consumi qualora non venisse rinnovato il fiscal cliff, appunto il piano di incentivi fiscali complessivo. C'è però da verificare se effettivamente questa ripresa sia concretamente sostenuta da un sottostante, appunto, valido, perché effettivamente il mercato immobiliare, che è stato il primo ad affondare negli Stati Uniti tra il 2007 e il 2008, ancora non dà grandi segnali di ripresa, nonostante la politica monetaria estremamente espansiva, i prezzi sono ancora, appunto, molto, molto bassi. Secondo lei questa ripresa è efficace? Questo 2% di crescita del PIL è una percentuale sostenibile? No, in realtà dall'amministrazione Obama, da quando si è insediato nel 2009 a oggi, il PIL è cresciuto in totale del 12%, quindi il progresso è stato molto ampio. Venivamo da una situazione di profonda recessione, di profonda crisi, quindi i cambiamenti sono stati tanti. Se verrà superato lo scoglio del fiscal cliff nella maniera più favorevole, probabilmente questo 2% è destinato ad aumentare, perché poi di fatto i segnali anche sull'immobiliare cominciano a essere leggermente più positivi. Da non dimenticare che poi nelle valutazioni dei numeri, di fatto la borsa americana oggi ha un price earning dello Standard & Poor's 500 intorno a 14 volte un rapporto prezzo-utili, sì. Il rapporto prezzo-utili che non è storicamente un rapporto alto, così come anche il rapporto prezzo-valore di libro, quindi prezzo-patrimonio, rimane intorno alle 2 volte, che storicamente è un livello che non è tra i più alti. Quindi, guardando i numeri, forse il mercato americano potrebbe, anche entrando in una fase che stagionalmente tra le più favorevoli, quella tra dicembre e aprile, in un mercato che poi sostanzialmente possa anche salire. Quindi tecnicamente devo dire che da un punto di vista di gestore il peso sugli Stati Uniti noi l'abbiamo aumentato nei mesi scorsi e continuiamo a mantenere un approccio favorevole. Vaccari, sempre al gestore che faccio chiaramente la domanda, ha la piattaforma davanti a sé, cosa dicono i futures? Ma in questo momento, li ho guardati un attimo fa prima di collegarmi, guadagniamo lo 0,20 e lo 0,30, quindi sostanzialmente consolidamento, diciamo, della tendenza recente. Apriamo talmente tante parentesi quando affrontiamo questi argomenti così complessi che veramente le nostre trasmissioni dovrebbero durare ore. Addirittura con Emilio Franco stavamo parlando di Hillary Clinton e gli stavo chiedendo, come pura curiosità, se un secondo mandato democratico, quindi la riconferma di Barack Obama, potrà pregiudicare un'eventuale candidatura fra 4 anni di Hillary Clinton, quindi ancora la tradizione democratica per la Casa Bianca. Lui mi diceva no, non è detto, e quindi sono molto contenta perché è una figura che mi ha sempre affascinata. Detto questo, non ci interessa, noi continuiamo a parlare di mercati finanziari. Vorrei sentire un paio di ascoltatori. Vi dicevo Luisa da Cagliari. Luisa, una signora che vuole chiederci qualcosa a proposito dell'impatto sui mercati di queste elezioni. Luisa, ha fatto notte anche lei, come molti italiani? Buongiorno. Sì. Mi sentite? Sì, sì, la sentivo, le avevo fatto anche una domanda, sì, eccoci. No, la mia curiosità riguarda il fatto che gli Stati Uniti hanno una gran parte del loro debito pubblico in Cina, acquistata dalla Cina, quindi sì. Vorrei sapere qual è, perlomeno così risulterebbe, quindi vorrei sapere da voi se ci sarà qualche modifica, che impatto potrà avere la situazione attuale degli Stati Uniti, appunto, da questo punto di vista. Grazie Luisa, una domanda pertinente, un tema che abbiamo affrontato anche nell'altra trasmissione, una gran parte, una bellissima parte, direi che non dico che quasi tutto il debito americano ce l'hanno i cinesi, Emilio Franco, ma insomma sono un bello ostaggio, direi, delle decisioni cinesi gli Stati Uniti, sì, diciamo, da questo punto di vista. Anche qui secondo me bisogna un po' ragionare al margine, no? Mi sembra che Romney avesse dichiarato delle intenzioni un pochino più, tra virgolette, bellicose nei confronti della Cina. Sappiamo che sono anni che gli americani accusano i cinesi di consumare troppo poco, di indebolire deliberatamente il loro cambio, e qualche volta si è arrivati a dire: non siamo noi americani che consumiamo troppo, siete voi che consumate troppo poco, voi cinesi, quindi dovete riaggiustarvi. Questo è il grande squilibrio che aiuterebbe tutti quanti. Passa per un apprezzamento del cambio cinese e quindi per un maggior potere d'acquisto dei cinesi. Questo è stato un grande tema che in politica americana ha rischiato talvolta di diventare un tema ufficiale con la dichiarazione dei cinesi manipolatori della valuta, il che avrebbe comportato una serie di difficoltà politiche, una serie di ritorsioni anche economiche. Quindi Romney sembrava orientato verso un inasprimento di questo atteggiamento nei confronti della Cina. Obama è stato sempre più pragmatico, capisce evidentemente che c'è una certa dipendenza dalla Cina per le ragioni non solo di debito pubblico, ma sappiamo anche che la contribuzione alla crescita della Cina è rilevante anche per quanto poi riguarda gli Stati Uniti. Quindi secondo me il tema breve è gestibile meglio oggi con Obama che in una eventuale sarebbe stato in una prospettiva Romney. Rimane che il tema politico strategico di medio lungo termine per gli Stati Uniti è il ruolo della Cina, che sempre di più da potenza economica sta diventando anche una potenza militare. Diciamo, leggevo qualche tempo fa che ormai la Cina ha la più grande flotta, tra le più grandi flotte militari e commerciali della storia dell'umanità. Quindi i cinesi sono molto abili ad evitare un conflitto muscolare con gli Stati Uniti. Però penso che la storia dei prossimi 10 anni sarà via via centrata su questo nuovo dualismo, che non sarà soltanto un dualismo economico e di valuta, ma sarà un dualismo di potenze militari anche. Ne vedremo delle belle. Volevo sentire Fausto da Treviso molto rapidamente per poi tornare ad Enrico Vaccari, perché vorrei per un attimo sul finire della trasmissione focalizzarmi anche su Piazza Affari, perché ci sono molte società che investono negli Stati Uniti e magari sulla scia anche delle prospettive di crescita e di ritorno alla crescita americana hanno delle potenzialità inespresse. Mi riferisco, non so, vabbè, a parte tutta la galassia Fiat, che sappiamo appunto i motivi per i quali ha interessi americani, ma ci sono per esempio Autogrill, c'è cioè tutto il settore del lusso che chiaramente è talmente internazionale che anche negli Stati Uniti ha una fetta di business molto importante, Finmeccanica, insomma tanti titoli. Però rapidamente la considerazione di Fausto, poi vado a Vaccari. Fausto, buongiorno, rapido, grazie. Buongiorno a lei. Niente, la mia era soltanto una considerazione personale sul fatto che ritengo la rielezione di Obama una continuazione anche sotto l'aspetto della stabilizzazione economica e anche un esempio di grande democrazia, perché comunque siamo davanti a un personaggio che sicuramente fra 4 anni non sarà più nell'ambiente politico e non come, diciamo, i nostri politici italiani che in realtà sono lì incollati alla poltrona, Fausto, esatto, esatto, e non si staccano più, c'hanno l'attack proprio di quello indelebile. Fausto, grazie, è vero, ci sono delle tradizioni, insomma, di democrazia molto diverse negli Stati Uniti e proprio anche su questo discutevamo con Emilio Franca a microfoni spenti, sul fatto che poi questi politici che hanno queste clamorose ed eccezionali esperienze alla Casa Bianca si convertono in qualcos'altro, hanno delle fondazioni come è successo per Bill Clinton, quindi vanno un po' in giro per il mondo a raccontare come si fa anche lì leadership e tanto altro ancora di interessante. Franco voleva dire qualcosa. E fanno poi un sacco di soldi. Ah, sì. No? Dopo che sono stati presidenti, però. Sì, infatti. Giustamente, devono continuare a mantenere un discreto tenore di vita. Enrico Vaccari, allora, ancora le faccio fare il gestore. Oggi, più che continuare a disegnare scenari finanziari ed economici internazionali, Piazza Affari agli Stati Uniti, come lo vede questo rapporto? È un rapporto legato all'export, che verso gli Stati Uniti è sempre stato molto forte. Il fatto che il cambio tra l'altro favorisca in un certo senso le esportazioni in questo momento ci può aiutare soprattutto per i settori che saranno probabilmente quelli favoriti dall'amministrazione Obama, che sono i settori legati alla green economy, dall'innovazione tecnologica, all'immobiliare residenziale, della sanità per quella sua famosa riforma che ha fatto sul Medicare. E penso che tra l'altro le condizioni principali di sostegno ai consumi che stanno arrivando dalla politica quantitativa della Fed continueranno ancora e quindi favoriranno secondo me i consumi negli Stati Uniti, sia per le imprese italiane che esportano, sia per le imprese italiane che lì hanno delle catene produttive come per esempio la Fiat con la Chrysler. Franco, lei pure vuole fare una considerazione su questo, che magari è quella che un po' di più interessa ai nostri ascoltatori e gli ascoltatori che sono interessati invece al Treasury americano e vogliono strapparne un po' magari ai cinesi che ne detengono un po' tanti, un po' troppi. Ma anche qui l'elezione di Obama, proprio per la ragione che rende più probabile non tanto la conferma di Bernanke, che avrebbe dichiarato di voler diciamo terminare la sua esperienza alla Fed dal 1 gennaio del 2014, però rende più probabile la continuazione di una politica monetaria estremamente accomodante e non convenzionale, che passa quindi per acquisti di titoli di Stato, non solo di mortgage-backed securities, titoli, obbligazioni legate al mercato delle case come l'ultima ondata di easing quantitativo 3. Come dire, questa conferma di questa politica anche per i prossimi anni è sicuramente un elemento di supporto per il Treasury, quindi non a caso per esempio già stamattina il future sul Treasury rallava, proprio perché la lettura è conferma di Obama pro Bernanke, almeno in termini di conferma di una politica estremamente accomodante. Leggevo che praticamente nell'ultimo sondaggio sui 21 primary dealer sui Treasury americani c'è il consensus addirittura del 100% che nei prossimi 3 mesi la Fed estenda l'easing quantitativo 3 anche all'acquisto di Treasury. Quindi questo è sicuramente di supporto. Questo non vorrà dire che i rendimenti nominali andranno molto sotto i rendimenti attuali, però sicuramente che c'è grande supporto. A differenza di quello che succede nell'area euro, la Banca Centrale Americana vuole mantenere i tassi reali negativi ed estremamente bassi per consentire l'aggiustamento fiscale non doloroso come certo, quello che stiamo vivendo noi. Prestatore di ultima istanza fino alla morte, direi. Grazie ad Emilio Franco, ad Enrico Vaccari e Coleman Kendall che abbiamo tenuto lì in collegamento da Washington. Non riesco a fargli raccontare come si intitolerà la sua prossima newsletter di Understanding the Market, lo conosceremo naturalmente dal suo sito. Intanto grazie a tutti, a domani.